mamma. Mamma, quel vino è generoso. E certo, oggi troppi bicchieri mi ha trapannati. Vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi benedite come quel giorno che partì soledato. Poi, mamma, sentite, io non tornò. Madre a tarda, un po'.